later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli la luce della luna rischiara solo pochi angoli, Kappa e Drago assistono a un penoso cambio di personalità. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Lo sai che anche l'amministratore delegato della fabbrica di polli non fa altro che lasciarmi messaggi stranissimi sulla segreteria del cellulare? Ma chi? L'amministratore? Sì, senti. Pronto? Sono la dottoressa Spizzelli. Volevo sapere se ho lasciato da voi il cercatrice. Ma è una donna questa, dai. No, no, è l'amministratore delegato che Come? È soggetto a cambi di personalità. No. Sì, sì, improvvisamente. Perché poi, senti qui, senti, si spaccia per un altro, ma è sempre lui. Sì, buongiorno, sono Frelletti. Io ho avuto oggi un appuntamento lì da voi col signor K e volevo sapere se per caso avete trovato una ruota di scorta, perché non la trovo più. Ma è proprio la sua voce, non ci sono dubbi. Povero amministratore delegato. Una vita spesa interamente per il lavoro e nessuna soddisfazione. Vabbè, nessuna soddisfazione, lo stipendio. Sì, ma comunque è una vita piena di responsabilità, Drago. Sempre di fretta, sempre di corsa, sempre in ansia, sempre in ansia. Non ho tempo, è l'ora della pastiglia, mi avete fatto perdere tempo. Non ho che preso pastiglia? La pastiglia, devo quale prendere la pastiglia. Quale pastiglia? Che pastiglia? Una pastiglia che mi ha ordinato il medico. Non sarà mica paroxetina. Come fai a sapere che è paroxetina? No, perché qui... Ma cosa ne sai tu della paroxetina? Ma no, lo, perché sì. Prima abbiamo incontrato, prima non so sempre, ieri, adesso... Non so, comunque sempre mezzanotte, abbiamo incontrato un pollo che dice che nel mangime regolarmente gli viene somministrata una dose di paroxetina e questo gli permette di vivere in questi 15 centimetri quadrati, in queste condizioni pietose, per cui la paroxetina... E chi sarebbe questo pollo che vi ha detto questa non cosa? So, non si so, chiama sì. Pollo in sbattimento. Almeno lui dice di essere in sbattimento, sì. In sbattimento e che quindi la paroxetina... Come fa a essere in sbattimento? È perché ogni tanto saltano il turno nel mangime e non gli mettono la paroxetina. Ma non e è possibile, non è possibile, qui sono tutti assistiti, i dipendenti di questa azienda sono tutti assistiti, coccolati, strapagati... Cos'è questa storia della paroxetina? Ma lei che stress può avere un dipendente di questa azienda? Come fa a essere stressato? È un pollo, cioè è una vittima sacrificale più che un dipendente. Ma quali vittime? Qui sono soltanto privilegiati. Ah, interessante. Ma questa cosa della paroxetina non possiamo approfondirla? No, io adesso indagherò. Secondo me avete preso un abbaglio. Non è possibile che qua dentro qualcuno prenda degli psicofarmaci. Così lei ha appena detto di prenderli. Non ho detto che prendo la paroxetina. Chi l'ha detto? No, no. Qualcuno mi ha sentito dire che ho preso la paroxetina? O che prendo la paroxetina? Assolutamente no, è falso. È falso. Voi vi convincete di quello che volete sentirvi dire. Non è assolutamente vero. Per quale ragione io dovrei prendere pastiglie o sostanze di questo tipo? Con tutta la palestra che faccio, non vedete che aspetto ho? Che aspetto ho? Ho l'aspetto di altri che prendono questi medicinali? Non vedete che muscoli, non vedete che colorito, sono cravata, leggermente abbronzato? Sì, quello sì. E allora, secondo voi uno abbronzato, ma come, quale lampada? La fabbrica di polli. La vita è dura, ti fa paura, alla mattina, paroxetina, inibitore, selettivo, della ricaptazione. Della serotonina paroxetina. Qua dentro sei sempre giorniero o secondino, non cambia niente. Anzi, i secondini stanno peggio di noi, perché non hanno il becco e sono pieni di aspettative. Aspettative sociali di cambiamento. Tutti comunisti sono. E allora, se siete comunisti, non lamentatevi della fabbrica di polli. La Corea del Nord al confronto è un paradiso. In Corea perlomeno hanno tutti il loro vestito buono per andare a manifestare in piazza a favore del regime. E poi il regime li taglia i capelli quando vuole lui. Poi invece le penne le perdiamo. E il vestito buono ce lo scordiamo, Perdiamo le penne, l'alopecia, lo stress. Voglio vedere con lo stress. Qui c'è l'incubo della morte. E aleggia in ogni momento. Altro che. Eppure i gallinacci sono animali mansueti, no? Sono uccelli. E perché ce l'avete tanto con gli uccelli? Tra me e un pettirosso non c'è alcuna differenza. Ma che differenza c'è tra un uccello normale e un pollo? Niente, il pollo è solamente portato, è stato allevato dall'uomo e quindi ha variato la sua. È come i piccioni selvatici e quelli che ci sono d'allevamento con tutte le cose strane, o i canarini, la stessa cosa, cioè ha perso tutte le caratteristiche selvatiche e ci sono ancora i polli selvatici nell'Indocina, vengono da là. I want you, baby, you have bird flu. I want you, but don't you have a bird flu? Se incontro per la strada una bella donzella, la guardo e le propongo di andare in camporella. Lei mi fulmina con gli occhi e mi dice non è aria. Guai te se mi tocchi che magari c'hai la viaria. I want you. Noi giovani polli, amanti dell'effimero, non è più permesso un po' di sesso libero. I want you, but baby you have bird flu. I want you, but don't you have a bird flu. You are the cattle and we are the keepers. Perché qua ragazzi forse voi non avete capito. E forse non tutti lo sanno, qui siamo in 25.000, non in 10 e 20, 25.000. E qui sapete cosa siamo per fare? Per sfamare gli uomini. Ma qua adesso, con sta storia della viaria, lo sapete cos'è, no? Adesso gli uomini non mangiano più il pollo. Nei supermercati rimangono i polli e secondo voi dei polli della fabbrica cosa ne fanno? Che qua fra poco ci macellano tutti, E come fanno? Si tengono 25.000 polli qua a invecchiare? Finché la gente non incomincia a rimangiare il pollo? Anche che si sa che non fa male, cotto. Non fa niente. Ed è crollato l'acquisto dei polli. E chi è il pollo qua, vero? Gli uomini o i polli che stiamo qua a farci massacrare? Adesso, ora che questi rincominciano a mangiare il pollo, ne basta, polli italiani, quelli prima di stare tranquilli e di rimangiare il pollo, E qui, se non riprendono a mangiare i polli, a noi ci fanno fuori tutti, ci macellano tutti, ma è uguale per noi, perché anche se riprendono a mangiare i polli, qui la fabbrica serve per quello, no? Per tagliare la testa, le gambe e via in pentola, Un'altra settimana fatta di mezzanotti o mezzanotti o mezzanotte si è conclusa, lasciando in sospeso tutto quello che già da un mese rasenta l'incomunicabilità bergmaniana, o se vogliamo, Michelangelo Antonioniana. Allora, per non sapere né leggere né scrivere, vi invitiamo ad abbonarvi al podcast di Radio Rai per riascoltare le vecchie puntate. Ma non solo, vi invitiamo anche a tornare lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi incomunicabili allestimenti de... La fabbrica di polli. Un programma di Cappa e Drago con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Eraldo Bocca, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Luca Gemma, Claudia Mangano, Luca Micheli, Jan van Lamsverde. La fabbrica di polli at rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. This program is on the air every night at the same hour. Good night, ladies and gentlemen, good night. È stato qualcosa...